Musei d'Italia, un viaggio da nord a sud, di Annarita D'Ambrosio e Adriana Fracchia. Buone feste a tutti da Annarita D'Ambrosio, un omaggio agli ascoltatori. Questo speciale vuole essere proprio questo, un omaggio perché andiamo in giro per musei nelle città d'arte stracolme in questi giorni. Ovviamente non me ne occupo da sola, ma ne parliamo con chi ne sa più di me. Accanto a me c'è Adriana Fracchia. Adriana. Ciao Annarita, un saluto a tutti gli ascoltatori e soprattutto un augurio di buone feste anche da parte mia. Sì, oggi parliamo di musei. Adriana, quali sono stati i più visitati? Allora Narita, sono stati anzitutto il Colosseo con oltre 6 milioni e mezzo di visitatori, seguiti dagli scavi di Pompei, gli Uffizi con quasi 2 milioni di visitatori, poi le gallerie dell'Accademia di Firenze, Castel Sant'Angelo, il circuito museale Boboli Argenti, il Museo Egizio di Torino, la Venaria Reale, la Galleria Borghese e la Reggia di Caserta. Bene, allora noi iniziamo il nostro viaggio, partiamo dal nord, poi scendiamo tutto lo stivale, partiamo da Milano che grazie ad Expo è risultata sicuramente una delle città più dinamiche. Questo viaggio, Adriana, ci consente anche di tracciare un bilancio delle nuove direzioni dei principali musei italiani, i 20 direttori che, lo ricordiamo, vennero selezionati a fine agosto 2015 con una procedura internazionale prevista dalla riforma Franceschini. Una ventata di novità importante. Adriana, partiamo dalla Pinacoteca di Brera, che da un anno è diretta da un canadese britannico, James Bradburn. Sì, direi che è un'ottima scelta, Annarita. Ricordiamo infatti agli ascoltatori che si tratta di una galleria nazionale d'arte antica e moderna che raccoglie i capolavori di artisti italiani e stranieri dal XIV al XIX secolo. Nel 2014 la Pinacoteca di Brera è stata il 21esimo sito statale italiano più visitato e nel 2015 il numero è cresciuto ancora di più, i visitatori sono stati più di 285.000. Il direttore James Bradburn dice di avere due missioni da portare avanti, quella di riportare Brera nel cuore di Milano e quella di riportare i visitatori nel cuore del museo. E per fare questo si ispira al concetto di grande Brera dell'ex soprintendente Franco Russoli, come mi ha spiegato in questa intervista. Cosa dobbiamo fare nei prossimi 3 anni a Brera? E questo si declina in due grandi linee. La prima linea è di rimettere Brera nel cuore della sua città. Fisicamente Brera è l'epicentro di Milano, è due passi a piedi dalla Scala, del Piccolo, è nel centro, però è un po' dimenticato, un po' perso, un po' sì, manca un po' adesso in il cuore. La città è cresciuta diversamente, ci sono le fondazioni Prada, le altre fondazioni, le Anga, Bicocca, Brera sembra un po' dimenticato. Dobbiamo riproporre, rimettere Brera nel cuore della città e questa è un'operazione veramente di riprendere la visione di Franco Russoli degli anni 60-70. Lui ha parlato della grande Brera, ma ovviamente negli ultimi decenni la grande Brera è divenuta quasi una frase per descrivere un'operazione un po' banale di immobiliare, di inviare gli studenti nei Casermo, nei Porto Vicenza, io non so dove, però infatti la grande Brera non era un'operazione immobiliare. La visione di Franco Russoli, uno dei più brillanti dei soprintendenti di Brera, era che la Brera divenga il cuore pulsante di Milano e che il catalizzatore di tutto il quartiere di Brera. Quindi la prima parte del promesso è di rimettere Brera nel cuore di Milano, riqualificando il cortile napoleonico, riqualificando l'entrata dell'orto botanico e l'osservatorio all'altro lato e in 2018 di spostare la collezione Iesi, la collezione Vitale, che sono le due grandi collezioni dell'arte moderna milanese, in il Palazzo Citterio per completare la visione vera della grande Brera di Franco Russo. Secondo promessa è di rimettere il fruitore, l'utente, il visitatore al centro del nostro lavoro, di rimettere il visitatore in grado di accettare, di sentire, di essere trasformato che tutto che l'arte ha da offrire. Adriana, ma quali sono stati i primi passi che ha compiuto Bradburn? Ha allestito il primo dialogo tra il Perugino e lo sposalizio della Vergine di Raffaello, mai visti insieme prima. Poi ha allestito un secondo dialogo tra il Cristo morto di Mantegna e l'opera omonima di Annibale Carracci e di Orazio Borgianni. E infine ha allestito un terzo dialogo dedicato al Caravaggio. Questa è stata definita un po' la mostra della discordia, sarà in programma fino al prossimo 5 febbraio ed è esposta la tela di Giuditta che decapita Oloferno, un'opera ritrovata 2 anni fa nella soffitta di una villa a Tolosa in Francia, che ha un'attribuzione ancora incerta al Caravaggio. Il quadro viene mostrato per la prima volta qui a Milano ed è un'occasione davvero interessante comunque per mettere a confronto un vero Caravaggio, che è quello di proprietà di Brera, la cena di Emmaus, capolavoro riconosciuto del Merisi, e proprio con questo dipinto che ha diviso gli studiosi. E ora invece, Anna Rita, vorrei farti sentire cosa pensa lo storico dell'arte Philippe Daverio della Pinacoteca di Brera di Milano. Quel simpatico James Bradburn, che è arrivato un po' che sembra un personaggio uscito da Stanlio Olio, perché è grande, parla con l'accento anglosassone, però ha una passione per la vitalizzazione, e vitalizzare i musei è fondamentale. Adesso solo il fatto che Brera abbia cominciato a cambiare le pareti, il colore delle pareti, che oltre al colore delle pareti si sono un po' riordinate le collezioni, per cui il visitatore entra e magari si ricorda anche una connessione fra l'ambiente e le cose che ha visto, non è più quella teca un po' anonima, infinita, dove solo lo specialista di storia dell'arte alla fine riusciva a distinguere le cose che vedeva. Adesso anche il pubblico normale, il pubblico curioso, anche il pubblico attento, trova una sorta di rispondenza. Adriana, la Lombardia nel 2015 ha totalizzato circa 1,5 milioni di visitatori e la sola Milano ha fatto registrare un boom, lo abbiamo detto, anche grazie soprattutto ad Expo. Ma nel capoluogo lombardo non c'è solo la Pinacoteca di Brera. Non c'è solo la Pinacoteca di Brera, ce ne sono davvero tanti, e fra questi ne abbiamo scelto uno in particolare, il MUDEC, il Museo delle Culture, che è nato da un'operazione di recupero di archeologia industriale nell'area dell'ex fabbrica Ansaldo, nella zona di Via Tortona, ed è un luogo di incontro fra le culture e le comunità. Il museo rende omaggio in questi giorni e fino al 26 febbraio del prossimo anno al genio maledetto di Basquiat, Jean-Michel Basquiat, con una bellissima mostra dedicata a questo primo artista afroamericano diventato leggenda, è scomparso nel 1988 a soli 27 anni. Sono oltre 140 opere di Basquiat realizzate fra il 1980 e il 1987, in gran parte provenienti da una collezione privata. Adriana, allora la curiosità di visitare Milano sicuramente ce l'abbiamo dopo questi dettagli che ci hai fornito, ne però ci spostiamo di pochi chilometri, restiamo al nord, andiamo in un'altra bellissima città che è Torino e ci facciamo raccontare le iniziative più interessanti da un ospite, vero? Sì, abbiamo un'inviata speciale, la nostra Filomena Greco, che ha dedicato una particolare attenzione a un museo imperdibile a Torino, il Museo Egizio. Anche qui c'è un nuovo direttore. E allora, prima di salutare Filomena Greco, che ci ha aiutato in questo tour nei più importanti musei italiani, sentiamo questa sua bella intervista al direttore del Museo Egizio, Cristian Greco. Guardiamo innanzitutto il bilancio del 2015, è stato l'anno della riapertura. In un anno e 3 settimane il museo ha fatto, appunto, l'anno della riapertura, 1 milione di visitatori. Questi visitatori ci hanno permesso di diventare autosufficienti dal punto di vista economico. Ci siamo detti, guardando anche le statistiche internazionali, che quest'anno avremmo avuto un calo del 25%. È normale che l'anno dell'apertura si attiri molto più pubblico per una serie di attività che vengono fatte e per le aspettative che ci sono. In realtà le cose stanno andando meglio, per cui pensavamo di chiudere attorno ai 750.000 visitatori, ma sicuramente supereremo gli 800.000, per cui il museo sta vivendo un momento molto fortunato. Ma adesso chiediamo a Filomena se ci può parlare di un altro interessantissimo museo che c'è a Torino, il museo dedicato al cinema. Buone feste anche a te, Filomena. Allora, cosa ci puoi raccontare del Museo del Cinema? Sì, buone feste a voi. E così, il Museo del Cinema è sicuramente il museo più visionario di Torino. Fino al 9 gennaio, ricordo agli ascoltatori che è allestita una bella mostra dedicata ad un maestro del cinema indipendente americano, Gus Van Sant, senza dimenticare anche le numerose visite guidate che sono aperte senza bisogno di prenotazione e le iniziative soprattutto per i bambini. La definizione di museo in realtà è un po' riduttiva per una realtà come il Museo del Cinema di Torino, perché è associata a tre festival, di cui il più importante è il Torino Film Festival, perché è collegato all'attività della Fondazione Maria Adriana Prolo e al patrimonio di documenti e di testimonianze dell'industria cinematografica, senza poi dimenticare anche l'attività del Cinema Massimo, che è destinata proprio agli appassionati di cinema d'autore. Però possiamo adesso sentire l'intervista a Paolo da Milano, che è il presidente del Museo del Cinema di Torino. La nostra attività non è soltanto quella museale, ma intorno a questa ruota una serie di attività molto importanti che variano dal sociale, dal coinvolgimento con i bambini, con le scuole, al coinvolgimento anche con quelle che sono le onlus più importanti del nostro territorio. Lei è un uomo, è un imprenditore, un uomo che arriva dall'economia, e che esperienza si porta dietro nel suo mondo economico? Come ha cambiato e vorrà ancora cambiare il modello organizzativo del museo? Insomma, per quello che sono le esperienze che io ho, che mi porto da parte delle mie attività, è quella del cercare di provare a fare della ricaduta sul territorio, ecco, quindi avere la possibilità di avere un luogo così importante come la Mole Antonelliana, avere un museo così importante come il cinema, non solo a livello regionale ma a livello nazionale e internazionale, mi piacerebbe farlo diventare un evento capace comunque di coinvolgere tutta la città, quindi mi piacerebbe poter incrementare il flusso di turisti, così come già sta succedendo, perché non dimentichiamoci che siamo vicini ai 700.000 turisti visitatori all'anno. Questo è un dato che sicuramente può essere migliorato integrandolo con ulteriori attività e migliorando quelle che già stiamo facendo. Il periodo delle feste natalizie è un periodo sensibile per i nostri musei. Voi cosa vi siete inventati per attirare, per migliorare la fruizione? Ma noi, per quello che riguarda le varie festività, le varie iniziative che ci sono durante l'anno, siamo sempre molto attivi. Abbiamo iniziato già anche solo con la festa di Halloween all'interno del museo, che molto si presta, quindi siamo partiti da quel periodo e arriviamo fino alle vacanze di Natale durante le festività. Quindi durante il periodo dell'Epifania ci sarà un corso per il trucco per i ragazzi, in maniera tale che possano anche utilizzarlo per meglio passare i loro giorni di festa e poter magari anche riuscire a imparare quello che potrebbe essere per loro un mestiere futuro. Ringraziamo allora Filomena Greco per essere stata con noi, e tra pochissimo passiamo al Centro Italia. Musei d'Italia, un viaggio da nord a sud. Ben ritrovati, ancora buone feste da Narita D'Ambrosio e da Adriana Fracchia. Adriana, che adesso siamo scesi al Centro Italia, ci porta in quale città? Allora Narita, vi porto prima di tutto a Firenze e poi a Roma. E a Firenze vi porto immancabilmente alla Galleria degli Uffizi, che è uno dei più importanti musei italiani e del mondo. È, pensate, il museo italiano più frequentato, terzo sito statale dopo il circuito di Colosseo Foro Romano Palatino e gli scavi di Pompei, con quasi 2 milioni di visitatori, che aggiunti al 1.400.000 di Palazzo Pitti e Boboli fa salire il totale dell'intero complesso museale degli Uffizi a 3.400.000 visitatori. Adriana, anche agli Uffizi c'è un nuovo direttore, è tedesco, si chiama Heike Schmidt. Sì, si chiama Heike Schmidt, è uno storico dell'arte che è diventato curiosamente famoso per una multa rimediata proprio a Firenze per la violazione del codice della strada, una storia davvero singolare. È stato infatti multato dalla Polizia Comunale di Firenze per aver installato, senza la necessaria autorizzazione del comune, all'esterno del museo diffusori di un messaggio audio anti-bagarini e con informazioni sull'acquisto del biglietto per i visitatori della galleria, multa che ha pagato di tasca sua. Heike Schmidt ci ha raccontato il suo primo anno a Firenze e le novità che prevede per il prossimo anno. Direi di ascoltarlo. Quando sono arrivato, gli Uffizi non avevano un proprio sito web, questo l'abbiamo creato, infatti abbiamo riacquistato l'indirizzo www.uffizi.it, che era in mano a un privato. Adesso invece funziona come sito degli Uffizi, abbiamo istituito i social e noi abbiamo già, dopo soltanto 4 mesi, l'abbiamo iniziato ad agosto, Per Instagram abbiamo più di 13.000 seguaci, per Twitter più di 8.000, quindi un buon inizio. Naturalmente non ci fermiamo qui, siamo veramente a un ottimo punto. Insomma, qualche cosa che ci può preannunciare? Una mostra importante sarà il ritorno dell'adorazione dei magi di Leonardo da Vinci, che da alcuni anni era all'opificio delle pietre dure per essere restaurato, pulito proprio, è venuto fuori un intervento di restauro spettacolare e il quadro verrà riportato agli Uffizi e avremo una mostra dedicata proprio al restauro e alla tecnologia di questo quadro ad aprire verso Pasqua dell'anno nuovo. E poi un altro grande evento dell'anno prossimo sarà una mostra dedicata al Cardinale Leopoldo de' Medici, che era uno dei collezionisti più importanti in tutta la storia, non soltanto degli Uffizi, ma della storia dell'arte. E molte opere che vediamo adesso furono acquistate dal Cardinale Leopoldo. Questa mostra aprirà il 6 novembre, proprio in occasione del suo compleanno, e per giunta sarà una mostra quindi che non si svolge di estate, ma una mostra che si svolge già nella stagione bassa, creerà la possibilità di proprio studiare per bene una mostra, godersi una mostra speciale invece di fare la solita fila. Adriana, Firenze tappa obbligata, scendiamo ancora un po' a Roma. Io non ci vado da tanto a visitare i musei e la scelta è veramente vastissima. Dobbiamo cercare di dare qualche segnalazione precisa. Allora, Annarita, la scelta è davvero difficile perché l'offerta museale di Roma è talmente vasta, però non possiamo non parlare della Galleria Borghese. È situata in uno dei parchi più amati dai romani, è davvero uno scrigno pieno di tesori d'arte. Si può considerare unica al mondo per quanto riguarda numero ed importanza di sculture del Bernini e tele del Caravaggio. E qui si può ammirare anche la principessa Paolina Borghese, sorella prediletta di Napoleone, ritratta dal Canova come Venere vincitrice. Sentiamo allora la direttrice di Galleria Borghese, Anna Coliva, quota rosa fra i 20 neodirettori uomini. Io ho sperimentato il prima e il dopo della riforma e posso dire che le possibilità di gestione e di lavoro sono infinitamente diverse e infinitamente migliori, cioè lo spirito della riforma credo che fosse quello di dare un'agilità a questa istituzione museo che dobbiamo ricordare che in Italia non esisteva in quanto tale, è incredibile, ma la cosa su cui bisogna riflettere di più forse è proprio questa, cioè che fino alla riforma al 2014 non esisteva in Italia il concetto di museo, bensì quello delle soprintendenze, a cui i musei erano sottoposti, collegati ed erano gestiti da una figura centrale che si occupava di moltissimi musei contemporaneamente, nel caso di Roma per esempio soltanto statali, di 7 musei statali, il che naturalmente portava a una inevitabile paralisi e soprattutto nessun soprintendente poteva conoscere in maniera specifica i problemi e le esigenze e le dinamiche di ciascuno dei 7 musei, per dire, magari a Firenze ce n'erano ancora di più. Quindi da questo punto di vista credo che i vantaggi siano incomparabili. Chi fa questo lavoro in Italia, anche nei musei e non solo nel territorio, è sottoposto a una responsabilità politica, in questo senso molto forte, per esempio resistere a tante speculazioni, a tante pressioni. E poi non bisogna mai dimenticare che la riforma riguarda un sistema di gestione, quindi è la gestione che deve essere più efficace. Nel 2017 la Galleria Borghese celebra il ventennale della sua riapertura, perché non dimentichiamo che fu chiusa negli anni 80 per 14 anni e fu poi riaperta nel 97, e per celebrare proprio questo anniversario verrà allestita una grande mostra su Bernini, pittore e scultore. Quindi non possiamo perderci questa visita. Adriana, qualche altra segnalazione? Sì, Annarita, ti porterei adesso alle Gallerie Nazionali d'Arte Antica, un'istituzione museale che dispone di due distinte sedi espositive, una a Palazzo Barberini e l'altra a Palazzo Corsini. E allora sentiamo il direttore delle Gallerie Nazionali d'Arte Antica, Flaminia Gennari Santori, che lavorava negli Stati Uniti ed è tornata in Italia. È una grandissima prima sfida, anzi direi che la sfida è appena cominciata. Il bilancio è senza dubbio positivo, perché le Gallerie Nazionali di Roma, cioè Palazzo Barberini e Galleria Corsini, hanno delle grandissime potenzialità, e l'aspetto particolarmente interessante di questo museo delle Gallerie Nazionali è che raccolgono insieme la quadreria settecentesca, ancora allestita secondo l'inventario settecentesco di Neri Corsini alla Galleria Corsini, e invece diciamo il museo anche del XXI secolo, per cui diciamo noi possiamo arrivare a un pubblico anche ampio, ma con dei fili conduttori molto forti. Le sfide sono immense, abbiamo dei problemi di personale molto importanti, non abbiamo abbastanza custodi, siamo tutti arrivati con delle strutture amministrative più o meno inesistenti che ci siamo dovuti inventare senza conoscere l'amministrazione dello Stato. Piano piano ci stiamo chiaramente facendo le ossa, io mi sto facendo le ossa, e secondo me l'anno prossimo, a partire da gennaio, si cominceranno a vedere i risultati, però ancora ecco a regime ci vorrà ancora tutto un altro anno. Ma è ottimista su questo sistema museale italiano o siamo ancora un po' arretrati? Siamo ancora un po' arretrati, cioè sono ottimista perché c'è possibilità di renderlo migliore, ma siamo ancora molto arretrati. Diciamo che noi abbiamo degli adempimenti burocratici veramente molto importanti che rubano tantissimo del nostro tempo. Diciamo che questo passaggio da far parte di soprintendenze molto più ampie ad un'autonomia gestionale e finanziaria si compirà, ci vorrà qualche anno perché si compia. Io credo che le potenzialità siano enormi, però credo anche che sia molto importante, questo proprio veramente è quello che poi porto con me dall'esperienza americana e poi dall'aver lavorato, studiato e vissuto all'estero tanto, cioè le cose accadono se ci si investe, ma non è soltanto un investimento di denaro, è chiaramente anche un investimento di denaro, ma deve essere anche un investimento strategico di costruzione, diciamo così, di progetti pilota per capire qual è la migliore struttura gestionale e diciamo proprio istituzionale per questi musei. Non si può pensare che ci si aspetti da noi che in un anno, due anni triplichiamo il nostro pubblico e senza che ci sia un periodo di sperimentazione e di investimento proprio anche strategico e dunque di testa. Dobbiamo avere il tempo un po' di pensarle le cose, e il Ministero invece la dinamica per cui come tutto questo sta accadendo invece ma possono venire mandati a Aosta piuttosto che a Macerata. Cioè il problema fondamentale è che ancora a noi ci hanno reso autonomi, ma ancora il livello di centralizzazione della gestione del personale è incredibile, e bisogna trovare e ragionare molto meglio sul rapporto tra amministrazione centrale e gestione centralizzata del personale e istituti autonomi. I progetti devono partire dall'istituto autonomo, non dall'amministrazione centrale. Quali sono le cose interessanti da segnalare in questo periodo per venire a fare una visita alla Galleria d'Arte Antica? Dopo le feste, l'11 gennaio, presenteremo le nuove gallerie, cioè presenteremo il nuovo sito web, la nuova identità visiva, la nuova programmazione e per il 2017 il nuovo piano strategico di rilancio, insomma, di tutti questi spazi, appunto, come caffetteria, bookshop, eccetera, che apriremo a Palazzo Barberini. Il lavoro che stiamo facendo è un lavoro per questo primo anno, diciamo, per tutto il 2017, concentrato tutto sulla collezione permanente, cioè faremo mostre sia a Barberini che a Corsini nella collezione permanente. E poi, siccome noi riallestiremo le collezioni di Palazzo Barberini, perché appunto avremo dei nuovi spazi, eccetera, questo è qualcosa che ci aiuta a ripensare l'allestimento delle collezioni. L'11 gennaio presentiamo al pubblico una importantissima acquisizione fatta dallo Stato, che è questo ritratto di Abbondio Rezzonico di Pompeo Batoni, che è uno dei più, forse il più importante ritratto italiano del Settecento, un ritratto monumentale a figura intera, per cui è un'opera che racchiude veduta, ritratto, un po' il grande ritratto del Gratone, insomma, è proprio una cosa molto molto molto bella. Adriana, ma che bel viaggio, veramente un omaggio agli ascoltatori davvero. Lo proseguiamo tra pochissimo spostandoci più vicino casa mia, al Sud Italia. Musei d'Italia, un viaggio da nord a sud. Ben ritrovati Adriana, come abbiamo detto andiamo al Sud Italia adesso, per le isole ti prenoto, il prossimo anno ci occuperemo solo delle isole, partiamo dalla mia Napoli, gettonatissima davvero in questi giorni, e iniziamo dal Museo Archeologico, il MAN, che si trova, Adriana, non lontano dal centro storico, dalle strade dei presepi, dalle chiese dei decumani, che sono una tappa obbligata in questi giorni. Sì, il MAN, il Museo Archeologico di Napoli, ha registrato quest'anno anche lui un boom di visitatori e sono in arrivo i 20 milioni stanziati dal CIPE che miglioreranno ancora di più il museo. Qui dopo 6 anni di chiusura sono state addirittura riaperte al pubblico la sezione egiziana e quella epigrafica del museo, con oltre 1400 reperti nuovamente esposti e 10 sale riallestite, la più antica collezione egizia d'Europa, divenuta con gli acquisti successivi anche la più importante e ricca d'Italia dopo quella del Museo Egizio di Torino. E allora abbiamo sentito il direttore Paolo Giulerini, anche lui da un anno al MAN di Napoli. C'è stata una forte convergenza di finanziamenti ministeriali e finanziamenti europei che, correttamente amministrati, hanno portato, diciamo, nel corso di questi anni alla riapertura della sezione, che costituisce, diciamo così, per l'antichità la prima sezione egizia d'Europa, e per le dimensioni gareggia, diciamo così, dopo Torino per essere, diciamo, tra le prime in Italia. In un momento in cui l'Egitto non è in qualche modo fruibile per le evidenti problemi internazionali, riaprire una sezione egizia non ha solo un valore scientifico, ma anche un valore di buona pratica politica, perché permette di approfondire questa civiltà che è la base di tutte le civiltà antiche, pur non potendola vedere de visu. Quindi noi siamo contenti per un doppio motivo: uno, perché incrementerà sicuramente il numero dei visitatori e costituirà il punto di riferimento dell'Egitto per l'Italia meridionale, oserei dire anche per l'Italia centrale, e due, perché in qualche modo diamo un messaggio, secondo me, di distensione anche a livello internazionale, cioè un altro volto dell'Egitto, quello vero, quello che dovrebbe essere per tutti. Quindi, insomma, dopo il Museo Egizio di Torino, un altro grande punto di riferimento per, appunto, esatto, per conoscere questa cultura in Italia, e questa volta appunto a Napoli. Tra l'altro Napoli è una città particolare, perché in realtà i ritrovamenti di Pompei nel 1760, il ritrovamento del Tempio di Isida a Pompei, scatenò una sorta di egittomania ben prima che da altre parti. Ecco, questo è molto importante, diciamo così. E i riferimenti all'Egitto nella stessa città sono tantissimi, naturalmente riferimenti posteriori, statue come quella di Piazzetta Nilo ispirate all'Egitto, i biscuiti di Capodimonte che fanno riferimento al gusto per l'Egitto, insomma si possono intravedere tantissimi itinerari, diciamo, culturali, che non si esauriscono nel museo ma vanno anche, diciamo, oltre. Quindi ci teniamo molto a dire che la collaborazione è costante e fattiva con il Museo Egizio di Torino, al quale va riconosciuto naturalmente il ruolo di soggetto pilota della egittologia non solo in Italia. Con questa operazione però il MAN in qualche modo si assesta tra i grandi musei internazionali, perché non ha più solo la più grande offerta di scultura classica, di pittura classica del mondo antico, perché questo è, ma comincia ad essere noto anche per settori che, come dire, in qualche modo erano meno comunicati, e quindi si può allargare a numerosissime tipologie di pubblico. Dalla sua nomina, che primo bilancio si sente di fare? Ma dunque, io sono personalmente, diciamo, soddisfatto, perché intanto abbiamo pubblicato un piano strategico, diciamo, che sarà la cartina di tornasole dei prossimi anni, cioè dove si fissano proprio in maniera inequivocabile gli obiettivi di lungo periodo, come si fa nei principali musei stranieri. Rispetto agli obiettivi che avevamo dichiarato nel primo anno, sono stati tutti raggiunti. Abbiamo riaperto 2 sezioni, la sala dei culti orientali e la sezione egizia. E soprattutto abbiamo un bilancio autonomo, abbiamo realizzato un nuovo sito internet, siamo molto presenti nella comunicazione social e stiamo riallestendo dal punto di vista del decoro tutte le sale. In più c'è stato una sorta di, come dire, legame intenso, sempre più intenso, con la città, che aveva bisogno di riscoprire un museo più dinamico, più aperto, più prono, diciamo, all'osmosi. Questo diciamo, è un vento nuovo che era necessario portare, ma tra i tanti direttori mi sento anche un privilegiato, perché mi sento di riconoscere che il personale che ho trovato, diciamo così, all'interno del museo, che apparteneva alle vecchie soprintendenze, si è distinto non solo per la professionalità, ma anche per la voglia proprio di ripartire con degli obiettivi nuovi che prima non facevano parte del retaggio delle soprintendenze. Adriana, io al MAN ci sono stata da poco, invece ho un grande desiderio, quello di rivisitare Pompei, e devo dire che in quest'anno a Pompei si è fatto davvero tanto. Da ultimo è stato inaugurato anche il percorso facilitato per disabili più lungo d'Italia. E lo sai, Adriana, che arriveranno anche i braccialetti elettronici per la localizzazione delle persone, che sono importanti. C'è stata nell'ultimo anno un'apertura boom di case, di spazi espositivi nuovi. Il direttore generale della soprintendenza di Pompei, Massimo Osanna, è stato ospite di Alessio Maurizi e Carlo Gabardini, e allora risentiamolo nell'intervista che Osanna ha rilasciato loro a novembre. Lei ha sempre detto ci sono pochi custodi, però a Pompei è un motivo per cui non riusciamo ad aprire tutte le domus, a far vedere tutto quello che c'è da vedere. Adesso con questo record di visitatori, soldi che restano sui siti, spesso degli incassi, potete assumere qualche custode in più? Noi sempre a valere sui fondi del grande progetto abbiamo già l'anno scorso e quest'anno cooptato a 50 addetti alla vigilanza che si sono affiancati ai nostri custodi. Questo numero è sufficiente ad aprire le case che stiamo aprendo, anche perché continueremo a tenerli anche nei prossimi anni. Ora l'idea è di tenere questi, ma non solo di aprire solo il stesso numero di case, ma di aprire le case a rotazione, cioè non sempre le stesse case, visto che adesso ne sono restaurate tante. E non è neanche, come dire, sostenibile che tanti turisti entrino nelle stesse case, calpestino gli stessi pavimenti, eccetera. L'idea è apriamo tutto, sì, però a rotazione, quindi ci saranno dei periodi che sono aperte delle case, altri periodi altri. Però c'è una cosa ancora, credo, scusate, il sito web, perché se uno cerca Pompei su Google vengono fuori tante cose, viene fuori, io me le sono segnate, pompei.it, pompeionline.net, pompeisites.org. E infatti è arrivato anche quello è il nostro. Ecco, però non è il primo, non è il primo, anzi forse è l'ultimo. Si possono prenotare le visite guidate via internet, perché non si trova il modo? Sì, allora il problema è accolto nel segno, il sito web è l'ultimo aspetto del piano della comunicazione fatto col grande progetto che non è andato ancora in porto. Cioè abbiamo fatto detto il progetto poco, di ristrutturazione, il progetto c'è, adesso va a bando per la realizzazione e diciamo in 2 mesi sarà sistemato. Questa è un'altra buona notizia. Proprio per questo, sì. Ha perfettamente ragione. Ma il dominio sarà sempre quello, Pompei. Il dominio è questo. Stiamo cercando di comprare gli altri in modo di avere una, come dire, una priorità nella... sì, perché anche quello poi si sa, è importante. Però prima... la buona notizia è che adesso abbiamo assunto 2 persone proprio responsabili di social. Adriana, c'è stato un boom anche a Caserta, dove dal 7 dicembre alla Reggia c'è un'illuminazione speciale e il biglietto d'ingresso costa solo 3 euro nella fascia oraria che va dalle 16.30 alle 19.30. È una delle ultime iniziative del direttore della Reggia di Caserta, Mauro Felicori. Cerchiamo anche in queste feste di Natale di avere un forte rapporto col territorio e con le espressioni artistiche del territorio. Ecco, una Reggia di Caserta anche sempre più raggiungibile da Napoli, grazie ad una navetta che collega il Maschio Angioino, quindi il centro della città di Napoli, alla Reggia, passando per un outlet perché è lo sponsor. Però ecco, anche l'impegno nel cercare di rendere sempre più fruibile da parte di tutti la Reggia. Sì, noi cerchiamo di metterci in rete col territorio, vogliamo essere amici di tutti quelli che ci circondano, anche perché intorno alla Reggia ci sono dei beni culturali straordinari come Benevento, come San Leucio, come Caserta Vecchia, tutte le realtà romane dell'Appia Antica, ci sono tipicità alimentari meravigliose. Noi siamo la capitale della mozzarella e proprio nella Reggia abbiamo inaugurato nelle Cavalleriste la nuova sede del consorzio. Quindi l'outlet ha voluto fare una gentilezza. Il bus Napoli Outlet non si fermerà all'outlet, ma porterà i turisti che vorranno venire alla Reggia, dove avranno 4 ore, che sono già un orario decente per vedersi la Reggia. Quindi, però c'è tanto da fare sull'accessibilità. Questo è il grande problema del sud, è che questi beni culturali sono accessibili un po' a fatica, quindi il pubblico europeo, ma anche il pubblico del nord Italia, percepisce il sud come un posto un po' faticoso, e invece tanto è meglio di quanto non si creda, però dobbiamo renderlo ancora migliore, accessibile, sicuro, e in questo modo il turismo può essere forse l'industria che traina tutta la rinascita del sud. Ecco, ma Mauro Felicori da Bologna, innanzitutto volevo sapere quanto le è mancata Bologna in quest'anno. Come percepiva la Reggia di Caserta prima di diventarne direttore? La percezione di un posto bellissimo ma un po' faticoso, invece è meno faticoso di quanto si creda e vogliamo renderlo ancora più appetibile. Ecco, in questo anno di direzione sono successe tante cose, a partire dall'inizio, da quella polemica che oramai è del tutto sopita con i sindacati, quel fatto che lei lavora troppo, ma allora è vero o no che Felicori lavora troppo? Guardi, Felicori lavora molto. E penso che sia giusto, io penso di dover dare l'esempio a tutti i dipendenti, a tutti i colleghi, penso che una sfida così non ci si può risparmiare di fronte a una sfida così entusiasmante e quindi mi diverto molto a fare questo lavoro, come dico delle volte scherzando, se fossi ricco di famiglia lo farei anche gratis, quindi è una sfida entusiasmante, l'idea dei beni culturali come fattore di sviluppo, che la cultura possa trainare la ricchezza, creare lavoro, è una sfida entusiasmante e non ha senso contare i minuti in più che si fanno. Adriana, un viaggio molto bello nelle città d'arte d'Italia che si conclude qui. Io sono soddisfatta. Io moltissimo. Andate tutti ai musei in questi giorni di feste. E ancora buone feste da Annarita D'Ambrosio e da Adriana Fracchia.